Ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole d'amore, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Ricordo, dicevi ancora le stesse cose, ma come fa presto amore ad appassir le rose così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. E quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai e sarà la prima che incontri per strada che coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. E sarà la prima che coprirai d'oro per un bacio mai dato.